Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il sogno della mia vita, quello di vivere in un paradiso indocinese postcoloniale, si dissolveva in pochi attimi. Che cosa vuoi che faccia? Chiesi sbigottito. E cosa vuoi fare? Siamo noi che dobbiamo fare qualcosa per portarti fuori da questo casino. Mi chiamo Dario, vivo in Francia, faccio l'imprenditore, sono sposato con una francese da 20 anni e amministro un po' i nostri beni e l'attività commerciale di mia moglie. Saigon. Merda. Sono ancora soltanto a Saigon. Ogni volta penso che mi risveglierò di nuovo nella giungla. Il 30 aprile 1975 la rivoluzione si presentò a Saigon esattamente come milioni e milioni di dimostranti nel mondo per anni se l'erano sognata. Semplice, contadina, giusta. Io restai a Saigon per 3 mesi e l'esperienza quotidiana di quella rivoluzione fu eccitante. Si aveva la sensazione di qualcosa di nuovo che veniva al mondo, qualcosa di promettente, come un bambino appena nato. C'era qualcosa di catartico, di purificante, nel lento rovesciarsi di una società che era stata estremamente corrotta, incapace, senza più ispirazione. L'illusione però non durò a lungo. E la rivoluzione vietnamita, come ogni altra rivoluzione, quella sovietica, quella cubana, quella cinese, presto mostrò l'altra sua faccia. I combattenti furono lentamente sostituiti dai commissari politici, gli eroi dai burocrati e gli idealisti dagli uomini dei servizi segreti. Presto una dittatura prese il posto dell'altra e il nuovo regime comunista finì per essere spietato e disumano come quello pro-americano del passato. Sono le 16:09, questa è sempre Radio 24. Quello che avete appena sentito è un pezzo scritto da Tiziano Terzani 20 anni dopo, esattamente il 1995, 20 anni dopo essere stato a Saigon in quei giorni, i giorni in cui la rivoluzione arrivava in città, le faceva cambiare nome e gli occidentali se ne andavano e in sostanza dichiaravano la guerra persa. Immaginate di non essere dove siete adesso. Probabilmente siete in automobile a casa, al lavoro, e la temperatura è quella della vostra auto, quella del vostro ufficio, ci saranno 21-22 gradi. Immaginate di essere in un posto invece molto più caldo, con umidità al 90%, ci sono 35 gradi, c'è odore di cibo fritto nell'aria. Immaginate di essere in Vietnam e di essere là più di 35 anni fa, ormai direi quasi 40 anni fa. Se riuscite a immaginarvelo, probabilmente riuscite anche a immaginare la storia di oggi, che è la storia di Dario. Dario adesso ha una vita completamente diversa, l'avete sentito, ha la voce di un uomo che fa un mestiere come l'imprenditore e che vive in Francia, vive fuori dall'Italia. Ma quasi 40 anni fa, lui aveva poco più di 20 anni e ancora non si capisce bene perché, ve lo faremo spiegare più tardi, era in Vietnam. Era la fine di marzo del 1974. Per ragioni che non mi è concesso svelare, mi trovavo a Thai Ninh, una città sugli altopiani al confine con la Campuchea. Negli anni 60, teatro di scontri fra gli australiani e i comunisti. In quella che allora era, ancora e solo per poche settimane, ma io non potevo saperlo, la Repubblica del Sud Vietnam. Ci avevano infatti informati che una nuova pesante offensiva era in corso più a nord, ma non credevano che le mire imperialiste del nord avessero la volontà, ma soprattutto i mezzi militari, per invadere e conquistare tutto il sud. E soprattutto che l'America avrebbe lasciato fare. Ebbene, si sbagliavano. Quando la notizia fu confermata che le divisioni regolari del nord avevano occupato Da Nang, venne l'ordine di convergere su Saigon, con qualsiasi mezzo. Avevo poche cose all'epoca. In un paese tropicale non c'è bisogno di un gran guardaroba. Presi il mio zaino, salutai la truppa e mi avviai verso l'unico mezzo di trasporto che funzionava, l'autobus. Saigon distava a meno di 100 chilometri, un viaggio normale di 7-8 ore. Ci misi 2 giorni. La strada era ingombra di ogni sorta di veicolo, biciclette, rickshaw, vecchi taxi, gente a piedi, animali soli e accompagnati. Ci seguiva quasi di continuo il rumore del cannone, sempre da est. Di tanto in tanto qualche aereo ci volava sulla testa.

Tantissime. Senti, ti ringrazio ancora. Qua i messaggi che fioccano non te li puoi immaginare, ma ora non te li leggo nemmeno. Mi fa piacere. Ti ringrazio ancora. La tua trasmissione è magnifica, spero che duri per sempre. Ti ringrazio. Le cose migliori non durano per sempre. Ti ringrazio, Dario. Grazie ancora davvero per la storia e la chiacchiera. Ciao, buon lavoro anche a te. Fai una puntata con lui, mi scrivono, ma soprattutto mi scrive Max da Bergamo. Il mio Vietnam è stato il carcere a 18 anni per 3 anni. Rapina a mano armata. Voi siete qui. È la foto di una foto, quella che ci ha mandato Dario e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. E vi consiglio di andare a vederla perché le facce, cioè la faccia di Dario in quell'epoca, che aveva poco più di 20 anni, è straordinaria. Non so dove si trovi. Così a naso, secondo me, è a banco con la sua giovane moglie. Però potrei dire una stupidaggine, perché lui è in mezzo a due signori anziani e ad una ragazza più giovane, tutta vestita di giallo. Lui ha su una maglietta maniche corte bianca, una t-shirt, dei pantaloni scuri e un fularino abbastanza vezzoso. E ha come Oscar, ve lo ricordate Oscar, quello che ci raccontò la sua storia, l'ex incursore della Marina, ha anche lui questi baffoni che ricordano vagamente Magnum P.I. Vietnam, nome ufficiale Repubblica Socialista del Vietnam, è uno stato del sud-est asiatico. Confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, a est e a sud si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, che tra l'isola cinese di Hainan e il nord del Vietnam forma il Golfo del Tonchino. A sud, per un breve tratto, il Vietnam si affaccia sul Golfo del Siam. Attualmente il Vietnam è una repubblica costituzionale. La lingua ufficiale è quella vietnamita. E vi abbiamo raccontato anche la cartina geografica del Vietnam, ve l'abbiamo fatta vedere grazie ad Alessandra De Luca. Fortunatamente il Vietnam, proprio come per Dario, non è una metafora di qualcosa di terribile. Per Giorgio il mio Vietnam è Ti Tui, che significa dolce acqua. Mia figlia è adottata 10 anni fa, ne sono innamorato. E poi ancora Simone, il mio Vietnam è, ovviamente in maniera dolce, far addormentare mia figlia ogni sera fa urla, graffi e calci. Che però in fondo non ne posso fare a meno. Ma cioè, tutti i bambini si addormentano dando pugni, calci e graffi. No, non lo so. 349-238-6666. Andrea da Genova scrive: non ho mai avuto il mio Vietnam, devo per forza averne uno. La risposta è ovviamente no. Semplicemente era mai capitato a qualcuno di aver vissuto una battaglia dura. Ora in Vietnam ci fanno le piaggio, mi scrive non so chi. C'è il maggior numero di vocazioni sacerdotali e mi chiedo a cosa è servito. Guarda, questa domanda secondo me va benissimo per qualsiasi guerra, per qualsiasi luogo in cui ci siano delle persone innocenti che muoiono, ma mica solo le innocenti, pure quelle che ci vanno per combattere. Sono atterrato stamattina a Milano da Saigon. Il museo della guerra è spaventoso. Il messaggio che preferisco però è il mio Vietnam. Qua ci vorrebbe una base terribile, ma non te la chiedo perché non te l'ho chiesta prima, Paolino. Tranquillo, però toglimi solo la base. Il mio Vietnam è ogni giorno da quando faccio il scusami, ogni giorno da quando faccio il liceo classico. Ormai sono 4 anni. Ciascuno ha la propria idea del Vietnam. Lui non si è firmato, ma lo immagino appunto al quarto anno, quindi al seconda liceo, se tutto è andato bene. Visto che però gran parte del racconto, gran parte della vita e gran parte di Dario, gran parte della storia di Dario nasce da una suggestione, che è quella di Emilio Salgari, anche se tutti scrivono Salgari, Tiziano mi ha stampato questa roba che dice la pronuncia Salgari con l'accento sdrucciolo è diffusa, ma è scorretta. Si tratta di un cognome fitonimico, derivante cioè dal nome di una pianta. Il Salgaro è in Veneto il salice, perché Salgari era veronese, anche se è morto a Torino. Salgari, voi lo sapete, non si è mai mosso da casa sua e ha scritto romanzi ambientati ovunque, soprattutto là, nel sud-est asiatico. Quello che vi voglio leggere adesso è l'inizio di quello che è il suo romanzo più famoso, che è Le tigri di Monprachem. C'è un temporale in arrivo e c'è qualcuno che sta vegliando nella notte. La notte del 20 dicembre 1849, un uragano violentissimo imperversava sopra Monprachem. Isola selvaggia, di fama sinistra, covo di formidabili pirati, situata nel mare della Malesia, a poche centinaia di miglia dalle coste occidentali del Borneo.